Allora, dicevamo che parlo con Ferdinando, sì, che oggi in Piazza Maggiore, oggi è un sabato mattina soleggiato a Bologna, aveva tutto un capanello di persone attorno che lui chiama la sua assemblea, non la sua, l'assemblea. L'assemblea in cosa consiste? Beh, io prendo l'iniziativa, metto lo sgabellino in mezzo alla piazza, no? Però poi l'assemblea si crea da sola, non c'è un appuntamento, un'organizzazione dietro, c'è una specie di autopromozione sistematica, perché il giovedì e il sabato io ci sono tutti i giorni, a parte le condizioni del tempo che delle volte possono essere proibitive, e si rimanda al giovedì o al sabato successivo. Però è tutti i giovedì e tutti il sabato e non c'è una convocazione, c'è una specie di autoconvocazione spontanea. Ecco, e cosa succede? Tu proponi un argomento oppure l'argomento te lo propone qualcun altro? Allora, comincio sempre che io parlo con i muri, tanto per i primi 5-10 minuti, delle volte avanti anche ben mezz'ora. E leggo, prendo spunto leggendo un articolo del giornale oppure una parte sottolineata di un libro che sto leggendo o che ho letto magari, che però è di attualità, e poi dopo si innesca una discussione possibile su quell'argomento e poi si cambia l'argomento. E gli argomenti di che natura sono? Oggi quando sono venuta in questo gruppo di persone si stava parlando di argomenti politici, sociali, economici? Sì, l'argomento è relativamente poco importante, cioè non è che non sia importante, però l'importante secondo me è cominciare a parlarci e a diventare comunità che, siccome io vedo abbiamo smesso anche di parlarci, una comunità che si parla, una comunità che inizia a esserci, indipendentemente dall'argomento. Però l'argomento lo può proporre o cambiare chiunque salga sullo sgabellino, non sono io, non c'è un direttore dell'assemblea. L'assemblea non è che solo si autopromuove nel venire, ma si auto condiziona, si autogestisce nel momento in cui si è lì. È un'improvvisazione. A un certo punto hai fatto un discorso, proprio tu, hai parlato dell'essere cittadini. Sì. Cioè hai detto praticamente qualcosa del genere, se la scuola non funziona e non iniziano ad uscire delle persone che sono innanzitutto dei cittadini, sì, che pensano, che imparano a pensare, siamo tutti fregati. Sì, a pensare e a vivere insieme agli altri in una comunità, non ognuno per i cavoli suoi, nemico il nemico tutti. Quindi diciamo quello che fai è in questo... è con questa intenzione? Sì, ma non solo. Cioè, finché il numero rimane quello limitato ad una scolaresca, si fa scuola. Se il numero dovesse crescere, come dottor Jekyll che diventa Mr. Hyde o viceversa, insomma, noi possiamo diventare lì in piazza, se c'è il numero, qualcosa di diverso, cioè un soggetto politico, cioè capace di avanzare delle rivendicazioni alla classe politica. Come cittadini o all'interno di una forza politica? No, come cittadini quali in piazza ci sono, in piazza possono rimanerci, e in piazza col numero hanno la forza della decisione politica. A questo proposito tu mi dicevi che hai avuto difficoltà però a fare questo tipo di, sì, di banchetti, di assemblee Le spontanee. Difficoltà derivano da un codice che noi abbiamo ereditato al periodo fascista e che sta dentro la nostra Repubblica, cioè che è il codice Rocco, il quale vieta capannelli, vieta affermazioni di tipo che possono essere considerate vilipendio, supponiamo al capo dello Stato, ma non solo al capo dello Stato, anche e soprattutto al capo dello Stato, perché rappresenta la nazione, no? Il fatto comunque che nonostante tu abbia incontrato dei problemi, persegui in questa modalità, è perché ritieni che il fatto di farlo in piazza rispetto a altre situazioni, certo, ha una valenza diversa? Certo, la piazza è il tempio del civismo ed è il luogo nel quale è possibile fare politica, cioè attività civica insieme agli altri, è il luogo, non è scelto a caso. Tradizionalmente? Da sempre, in ogni caso, indipendentemente dalle tradizioni, per come si presenta, è al centro della città, è un luogo aperto, è un luogo grande, è uno spazio che anche per tradizione abbiamo usato in quei termini. Quindi, a Bologna? Sì, non solo a Bologna. Ai tempi dei comuni. Senti, da quanto tempo è che hai questa attività come dire, sovversiva. In un certo senso sì. Allora, una data precisa non la so fissare, comunque a Bologna ha cominciato in Piazza Verdi, sui pilastrini, tipo quelli lì, sai Piazza Verdi? Sì. Quindi non con lo sgabellino, quindi poi ho un po' affinato la tecnica. E ho cominciato verso la fine degli anni Ottanta, perché avevo il problema della mucillagine, io lavoravo d'estate là al mare, e la mucillagine era un impedimento al lavoro, quindi ero praticamente un disoccupato che aveva un sacco di tempo libero, disponibilità anche economica nonostante le difficoltà del momento, per andare a fare i cavoli miei in piazza, a dire le cose che pensavo, perché quando è arrivata la mucillagine io ho avuto una sensazione molto netta, a parte le difficoltà economiche del lavoro che ti salta eccetera, di essere responsabile di quella situazione, io responsabile. La responsabilità? Sì. E adesso nei confronti di cosa ti senti responsabile? Di quello che sta succedendo in Italia, cioè della degenerazione del sistema politico, problema morale, che non è solo di un partito, è un problema di tutti. Allora, sono quasi 20 anni. Sì, sì. E in questi 20 anni, in questi 20 anni hai visto modificarsi qualcosa nelle assemblee? No, in questi 20 anni, a parte che ogni assemblea ha la sua storia, quindi ci sono come le ciambelle, quelle che riescono col buco e quelle no. Però, insomma, ho sempre avuto un riscontro numerico di presenze che ha limitato le possibilità che c'erano lì e si poteva solo fare scuola. Quindi se uno aspetta dei risultati da un'attività di quel tipo deve guardare non nell'arco degli anni ma nell'arco delle generazioni, cioè la cultura sa, se incide e dà qualche risultato lo dà nel lungo periodo. Ma e nel tipo di partecipazione quindi vedi un andamento abbastanza costante? Sì, comunque. Quello che hai visto oggi è più o meno quello che si fa da 20 anni. Ti volevo dire, innanzitutto due domande. Quello che tu fai in piazza, a me che sono abituata a usare il computer per lavoro, sì, internet e tutte queste diavolerie elettroniche, sì, mi sembra assolutamente somigliante a quello che si cerca di fare disperatamente con un blog. Cioè tu mi sembra che in realtà hai messo insieme o sei in grado di mettere insieme quello che ogni blogger sogna, cioè di far parlare le persone, di farle confrontare, di fare emergere dalla strada, dalla piazza una voce, però la tua scelta ovviamente è di farlo nel vivo, sì, della vita, della strada, non quella di essere in altri sistemi di comunicazione, sì. Cioè è una scelta che contiene delle diffidenze nei confronti di altri sistemi di comunicazione? No, no, delle difficoltà sì, però, perché io sono vecchio, sai, i vecchi in genere le novità non le apprezzano molto perché non ci arrivano, e la testa gli si chiude, e allora sai, anche frequentare i blog per me ho quelle difficoltà lì, però credo che ci siano strumenti diversi che si possono essere complementari l'uno all'altro, e che credo che la piazza abbia delle opportunità che il blog non offre e il blog viceversa delle opportunità che la piazza non offre. Il blog per carità, però ognuno per la sua strada, e la piazza è quello strumento che se uno vuole diventare protagonista della sua storia è indispensabile mettere in campo per poter ottenere dei risultati politici. Col blog non ci arrivi, col blog puoi creare le premesse culturali, informative, cioè, che servono per, ma poi devi passare attraverso la piazza. Senti, allora, un'ultima domanda. Ti vorrei chiedere, anche se non sei di Bologna, sì, ma rispetto a quella che è la tua esperienza di cittadino, sì, che cosa secondo te fa di un governo cittadino un buon governo cittadino? Ci hai mai pensato? Non ho capito bene la domanda. Cioè, va bene, a parte quello che fa il governo di buono, di sbagliato, l'amministrazione locale, secondo te, in che modo può agevolare e rendere migliore la vita dei cittadini? Allora, indipendentemente da quello che decide, se risponde di quello che fa dei cittadini, che siano dei cittadini magari incontentabili, non schierati, non tifosi, non servili, eccetera, e chi amministra, amministrerà per forza in favore dei cittadini. Se i cittadini mancano, se ognuno magari fa il tifo per il tipo tale o il partito tal'altro, dai quali poi può ricavare un vantaggio, cioè io ti do il consenso politico, il voto, tu poi di ritorno dai a me, al mio gruppo, un riscontro del tipo privilegio, non funziona, non ci deve essere complicità, il cittadino deve ritenere che l'amministratore è un rischio pubblico, un pericolo pubblico, un qualcosa che può dare dei frutti ma può anche essere un rischio enorme se non è controllato, cioè se c'è il cittadino l'amministratore amministra bene, se non c'è il cittadino può esserci anche un buon amministratore, finirà per diventare complice di una cattiva amministrazione, cioè voglio dire Napoli supponi, no? Io da quando ero alto così, destra, sinistra, amministratori di centro eccetera, la spazzatura con degli alti e bassi era sempre stato un problema. Vai a Padova, destra, sinistra, centro, chiunque amministri, c'è una popolazione di riferimento che non accetteremmo un riscontro di quel tipo e non dipende da chi amministra, dipende dai cittadini il risultato di un'amministrazione, che è buono o cattivo in funzione del fatto che ci sono o non ci sono cittadini. Ok. Tiriamo su qualcosa. Va bene, grazie. Allora, ciao Ferdinando.